piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Allora, l'unica cosa per cui potremmo avere un problema è che questo effettivamente pesa veramente un sacco. Quindi, dato che io abito all'ultimo piano, un palazzo senza ascensore, sarà un po' un problema. Primo tentativo, pronti? Oddio! No, ma va velocissimo. Non ci credo di avere un monopattino elettrico. Cioè, raggiunge i 25 km/h. Se la viaggia bene, in 5 minuti ho fatto praticamente tutto il canale. Ovviamente qua barcolla un po' tutto, che sono su una strada con ciottoli. Potenzialmente ti fa 45 km. Con tanti 45 km, cioè ci giri Milano 20 volte. Questa ragazza sta facendo una prova su strada del suo nuovo monopattino elettrico, è preso dal canale YouTube Stay Serena. Lo sta provando con una certa apprensione perché in effetti un monopattino va veloce. Era un attrezzo che noi consideravamo giocattolo delle nostre generazioni precedenti. Non ho mai giocato con un monopattino e sono un ragazzo degli anni 50. Non si usavano più i monopattini come giocattolo, ma sono riemersi come mezzo di locomozione urbana. In particolare, dopo la quarantena causa coronavirus e grazie agli incentivi che sono stati previsti nel decreto rilancio, improvvisamente nelle città italiane sono esplosi i monopattini. Ne vedo tantissimi parcheggiati anche qui a Roma, quelli elettrici, quelli che si possono prendere in sharing, si possono usare e lasciare da un determinato l'uso, e devo dire che mi ha un po' sorpreso, perché Roma non è proprio la città più adatta per il monopattino, primo perché è composta di 7 colli, quindi sono molte salite, poi perché ci sono un notorio manto stradale pieno di buche, è già difficile prendere una buca con un'automobile, già è pericoloso con una moto, già è al limite della sopravvivenza in bicicletta, il monopattino è proprio un gesto da kamikaze totale, eppure a Roma stanno girando i monopattini. Noi ce ne occupammo un anno fa circa, quando cominciò a uscire una normativa che cominciava a regolamentare questi oggetti che non avevano ancora una ben precisa denominazione, cos'erano, dei giocattoli, dei mezzi di locomozione, ma hanno dei sistemi di sicurezza, di identificazione, più o meno vanno alla velocità di un ciclomotore e quindi dovrebbe avere targa, dovrebbe essere riconoscibile, ancora non funziona, ma nell'emergenza generale è riapparso sdoganato il monopattino. Questa mattina vedo una ricerca lanciata dall'agenzia ADN Kronos, un'analisi che sono state fatte su delle ricerche online che hanno fatto da chi produce appunto biciclette, accessori legati alla micromobilità, e vedo che l'incremento dei monopattini elettrici è del 457%, degli skateboard del 439%, il 912,9% per le bici elettriche, le bici pieghevoli, poi sapendo anche che ci sarà un notevole incentivo ancora molto misterioso, magari basato a un click che prima arriva se lo becca, che per il 60% copre la spesa, insomma tutti hanno pensato bene in un momento in cui sembrava più difficile circolare che il monopattino potesse risolvere i problemi. Ecco, mi piacerebbe capire ancora una volta tra le persone che mi ascoltano, visto che questa è un po' la vocazione del programma, quanti hanno cambiato i loro usi di semovenza nelle città usando il monopattino. Le biciclette è un altro argomento, un argomento a parte, rientra comunque in un filone tradizione. Vedere signori impettiti, vestiti di tutto punto, in giacca, cravatta, con borsetta professionale d'avvocato, da commercialista al seguito, sfrecciare verso Piazzale Clodio in monopattino, per me dà una certa sorpresa. Quindi vorrei capire quanti oggi, che possono chiamare all'800 24 00 24, stanno provando questa frenesia del monopattino. L'avete comprato? Aspettate l'incentivo per comprarlo con lo sconto, sperando di arrivare in tempo a cliccare? O naturalmente lo guardate con un distacco, con paura? Alcune città magari sono più adatte. Milano è più facile girare in monopattino rispetto a quanto sia facile a Roma, ma a Roma girano i monopattini, la gente sta usando il monopattino. Quindi se noi ci fossimo addormentati in una sorta di sonno catalettico 3-4 mesi fa, ci saremmo svegliati oggi, io avrei visto a Piazzale Clodio, Piazza Bensizza, parcheggiati un'infinità di monopattini e gente normalmente prendere il monopattino. Questo per me sarebbe una novità. Pier Francesco Cagliari, buongiorno. Buongiorno. Direttore generale Confindustria ACMA, Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori. In pratica è l'associazione che costruisce i veicoli a due ruote. State registrando anche voi questa nuova e insospettabile passione per il monopattino? È possibile fare qualche cifra su come si stanno muovendo? Allora, per noi non è una novità, anche perché di monopattino si parla già ormai da un buon anno e mezzo. Perciò non è una creazione post-Covid, tant'è diciamo che era nato in un momento di un po' di incertezza normativa, non si sapeva bene cosa fosse. Oggi cos'è? Definito cos'è un monopattino? Allora, il monopattino è stato prima con Toninelli, c'era stato un decreto per quanto riguardava quello che era la sperimentazione di questo nuovo modo di spostarsi e di mobilità. Poi con la legge di stabilità preparata nel 2019 per il 2020, è diventato equiparato a quello che era la bicicletta. Questo noi non eravamo molto d'accordo, perché sono due prodotti assolutamente diversi. E qual era il motivo, diciamo, voi siete degli esperti di questo settore, quindi se avete delle perplessità erano ben motivate, motivi di sicurezza, I motivi erano svariati, che andavano dalla sicurezza a quello che è il prodotto in se stesso. Quindi avremmo preferito che ci fosse un avvicinamento più graduale a questa nuova mobilità di prossimità, perché la bicicletta non è mobilità di prossimità, il monopattino, per quello che è proprio la sua conformazione, è un prodotto di ultimo chilometro proprio. Sì, lo diceva prima la ragazza, un'autonomia di 40 chilometri, ecco, poi deve essere ricaricato, mi sembra, più o meno. Sì, certo, però ecco, ha delle... Allora, intanto iniziamo a dire che oggi i numeri sono fatti da chi sta facendo... dalle società di sharing. Quindi quando uno vede in giro dei monopattini, non vede in giro dei monopattini particolari o che siano riconducibili a un prodotto particolare, ma si vedono un'uniformità di prodotti che poi fanno capo a società di sharing. Quindi da noi è stato, diciamo, più questo tipo di spinta a quello che è la comparsa del monopattino, che non per una scelta, diciamo, privata, anche se comunque nei confronti, per esempio, delle biciclette, che hanno un grandissimo problema, che è quello dei furti, il monopattino, specialmente se è un monopattino pieghevole, risulta più facile in quello che è il trasporto, cioè uno se lo può portare in treno, se lo può portare in metropolitana, lo può prendere e portare in ufficio, attaccarlo a una presa qualsiasi come un telefonino. Ricaricare. Ecco, l'indubbio vantaggio è questo: uno se lo può portare in ufficio, non è ingombrante, e quindi esatto, allora, praticamente ha una diciamo, condizione d'uso particolare, e ha la possibilità, diciamo, di essere trasportato con più facilità. Però oggi quello che noi vediamo nelle città è più che altro legato a quello che è lo sharing, non tanto a quello che è il privato che va in negozio e si compra il monopattino. E poi il monopattino sarebbe anche forse cosa... tutti aspettano in questo momento l'incentivo, cioè è girata anche come fosse una sorta di battuta. L'incentivo va, per esempio, è stato dato nel decreto anche a mezzi che non sono regolamentati da quello che è il codice della strada, vedi Segway, vedi monoruota, vedi waveboard e quant'altro. E questo come la giudica lei, dal suo osservatorio, il fatto che siano soldi per mezzi che in realtà uno ci potrebbe andare nel terrazzo di casa, ma non ci potrebbe mai andare a lavorare col monoruota? Allora, la trovo una scelta azzardata, o quantomeno un po' strana, un po' bislacca, anche perché questi sono prodotti che provengono tutti dalla Cina, e non abbiamo fatto nulla per spingere quello che è il prodotto, la produzione nazionale. Ma le posso fare una domanda insidiosa? Se io compio un'infrazione stradale con il monopattino, che tipo di contravvenzione mi fanno? Come se andassi a piedi? No, è come se andassi in bicicletta. Ah, è equiparato alla bicicletta, tale e quale. Certo. Allora, l'ho detto prima, la legge di stabilità varata a dicembre del 2019 ha equiparato le biciclette a quello che sono i monopattini alle biciclette. Questo non era nel decreto Toninelli, che invece aveva dato per 2 anni la possibilità ai vari comuni di poter fare una sperimentazione su quello che era il monopattino. Che noi vedevamo, e quindi in teoria col monopattino posso andare ovunque, posso andare in bicicletta? No. Allora, col monopattino ci sono delle limitazioni. Allora, sulle strade urbane si può andare nelle strade urbane che abbiano un limite di velocità entro i 50 km all'ora e sulle strade extraurbane solo se c'è una pista ciclabile. Ah, ecco, quindi non è che posso usarlo come la bicicletta. Sento un attimo, dottor Cagliari, un ascoltatore, Franco da Trento, che è, diciamo, una sua posizione sul monopattino. Franco, buongiorno. Ah, buongiorno Nicoletti. Poi nella sua città sono apparsi monopattini in affitto? No, in affitto no. Senta, io ho un'esperienza di pochi giorni fa. Ho incontrato un giovane di origine tunisina che era arrivato dall'Inghilterra e si era portato dietro il monopattino, l'aveva fatto spedire, comperato di là, e era un bel mezzo, mi ha tirato, l'ho guardato, siccome io sono appassionato di bici, e sto qua gentilmente mi ha spiegato quanto è costato, e poi gli ho chiesto, siccome io sono contrario a questi monopattini. Ma perché stanno antipatici? C'è una sua, o è motivato? Sono pericolosissimi, l'ho visti sfrecciare. Io gli ho chiesto a questo ragazzo, ma il limite di velocità ho sentito che è di 25? No, dice, si può andare molto oltre, mi ha detto. Ma lei si immagini un monopattino che va a 40 all'ora, sfrecciando persone... Dottor Cagliari, io mi sono fatto una ricerca in rete guardando qua, là ci sono siti specializzati in monopattini per smanettoni di monopattini. Una delle cose più evidenti è che ci sono dei kit per potenziarlo e dicono che arriva fino a 60 km all'ora, ma è possibile? Allora, tutto nella vita è possibile. Non facciamo però questa cosa una cosa, diciamo, un cadere dal pero. Allora, da ragazzino io avevo lo scooter e tanti avevano lo scooter truccato. Chi lo dice? Ho passato nottate a limare testate, che nemmeno glielo posso raccontare. Esatto. Poi siamo passati alla bicicletta pedalata assistita e sappiamo benissimo che ci sono dei limiti sulla pedalata assistita e sappiamo benissimo quanti la usano, anche lì, mi scusi il termine, taroccata. Le minicar una valanga sono truccate. Allora, le minicar i ragazzini appena la comprano la portano subito al meccanico a farla potenziare. Allora il problema qual è? Allora, esiste un codice della strada, esiste il rispetto del codice della strada. Se uno tarocca un dispositivo, c'è il sequestro del dispositivo e poi una sanzione pecuniaria. Ma anche quello che tarocca la macchina, quello che tarocca la moto. Cioè, il limite quale sarebbe per il monopattino? Limite allora, consentito. Il limite di velocità per il monopattino è 25 km all'ora come la bicicletta pedalata assistita. E 6 km all'ora nelle aree pedonali. Questo è il limite stabilito dalla legge. Quindi noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma se le cose sono usate col cervello e col buon senso, naturalmente si può fare più o meno tutto. Io faccio sempre questo esempio, anche una bottiglia è pericolosa in mano, la spacca, te la tira sulla testa. A Roma l'abbiamo visto quest'ultimo sabato quanto volavano le bottiglie, quanto era pericoloso. Il problema è che noi stiamo andando verso un nuovo tipo di mobilità, che ci piaccia o che non ci piaccia. dovremmo abituarci a dei nuovi dispositivi che saranno presenti sulle nostre strade e sarà responsabilità di chi li usa e sarà responsabilità delle forze dell'ordine far rispettare quello che è il codice della strada. Quindi non è che ci dobbiamo spaventare su quello che sono le novità, perché sennò il mondo non progredirebbe. Noi dobbiamo far rispettare quello che sono le norme del codice della strada. Mi sembra chiarissimo, devo interromperla solo un istante, che dobbiamo dare solo un istante la linea, però ripartiamo proprio fra pochi secondi da questo punto qua. Cambierà la maniera di usare le nostre strade e cambierà anche la nostra percezione dei mezzi di trasporto urbani. In questo cambiamento il monopattino può essere un corroborante utile al parcheggio dell'automobile, non nelle prossimità del proprio ufficio, del posto in cui si deve andare. Qui si parcheggia magari in aree più comode e meno invasive per il benessere di chi abita nei centri abitati, e poi con il monopattino si possono fare quei chilometro, due chilometri che ci porta in ufficio, e questo sarebbe un uso tranquillo, pulito e lecito. Il resto lo valuteremo, ma tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Vi apprestate ad acquistare un monopattino elettrico? Chiedetevi che uso ne fate prima di chiedervi che modello, e qua farei due macro categorie. Ultimo miglio, quindi un mezzo da mettere nel baule della macchina, poi parcheggiare la macchina e arrivare in centro in città col monopattino, oppure un tragitto ben definito, che sia casa lavoro, casa scuola o quello che volete. E se il tragitto è casa lavoro, lo usate senza prendere mezzi, oppure sarà un, diciamo, mezzo intermodale da caricare su una metropolitana, su un pullman o su un treno, e questo vi fa da spartiacque, perché nel primo caso avete bisogno di un mezzo leggero, versatile, maneggevole. Nel secondo caso avete bisogno di un mezzo con più autonomia, magari anche più stabile. .800240024, quello che avete sentito, il canale YouTube di Andrea Galeazzi, che ci spiega quale monopattino scegliere. Questo per darvi testimonianza del fatto che oramai è diventato un mezzo che ha tutta una sua catena, rete di specialisti che ci spiegano quale modello scegliere, come si comprano, come personalizzarli, come abbiamo già detto, come potenziarli, come usarli, qual è l'uso farli. Finora abbiamo capito che il monopattino è, diciamo, l'avvisaglia, l'avanguardia di una nuova maniera per intendere la viabilità nelle nostre città. Al momento, come naturalmente tutti i mezzi d'avanguardia, c'è anche chi ne fa un uso improprio, ma non deve essere quello, diciamo, il segnale che è un mezzo sbagliato. Mi scrive un ascoltatore sul canale Melog ha parlato, su Telegram, dice: vedo gente che senza ironia arriva in palestra in monopattino, si fa mezz'ora di tapis roulant e poi si ritorna a casa in monopattino. Però non ci vedo nulla di strano, nulla di singolare. La palestra è anche una maniera per socializzare, probabilmente non farà soltanto il tapis roulant, sarà semplicemente la parte di riscaldamento, farà anche altre attività fisiche. Ci va in monopattino perché fa prima, non prende mezzi pubblici, avrà paura di prenderli, preferisce non muovere la macchina. Questo mi sembra un sistema intelligente. Ringrazio le persone che mi stanno aiutando in questo momento ad andare in onda, che però non ho, eccoli qua, li ho trovati. Valeria Bernardi in regia a Milano, Anita Panizza in assistenza, da Roma c'è sempre Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Sentiamo qualche ascoltatore e poi torniamo al nostro ospite. Ernesto, provincia di Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. A me interessa molto questa faccenda, perché è vero, il monopattino potrebbe essere un mezzo di trasporto a breve distanza. Se piove, però, evidentemente bisognerà inventare una tettoia per proteggere chi va via col monopattino. Vabbè, però guardi, che chi va con lo scooter è abituato con lo scooter, non si impressiona per la pioggia. Se piove non lo prende, ma non è che piove tutto l'anno. Diciamo, tenerlo nel bagagliaio dell'automobile e usarlo come mezzo di avvicinamento, tutto sommato, male non farebbe, ecco. Ma il problema è Allora, io ho 80 anni e non posso, è consigliabile che non usi un monopattino, perché già sono a rischio col Covid e per cui sono a rischio. Anche se non... Il problema è, io con l'autovettura sono obbligato, perché percorro le sedi stradali di proprietà dello Stato, della provincia, del comune, e sono obbligato a pagare un bollo, pagare un'assicurazione, cambiarmi le gomme, perché sennò se mi trovano con le gomme usurate prendo la multa. Però la sentita cosa ha detto il nostro esperto, è equiparato alla bicicletta. Io ho una bicicletta e nessuno mi ha chiesto nulla, la prendo, pedalo e la rimetto nella rimessa, è la stessa cosa il monopattino. Andava in bicicletta e io gli ho fatto un'assicurazione, perché percorre le sedi stradali, perché la macchina deve pagare una tassa, un'assicurazione. Se mia moglie crea un problema con la bicicletta, è chi paga? Punto di domanda. Lei è una persona scrupolosa, non c'è l'obbligo ancora di fare l'assicurazione, finché non c'è l'obbligo nessuno è obbligato. Chiaramente se uno ha un ragazzo e lo manda in monopattino, va in monopattino e vuole tutelarsi e assicurarsi, penso che nessuno ce lo impedisca. Paolo da Milano, buongiorno. Paolo. Pronto? Sì. Sì, buongiorno, io oltre ad essere Paolo da Milano sono l'amministratore del gruppo Facebook Club Italiano Monopattino Elettrico, un gruppo che ha più di 8.000 iscritti. E dunque, quando siete nati? Quando vi siete costituiti? Siamo quanto nati tempo un fa? Anno e mezzo fa, siamo nati grazie, per un, diciamo, quasi un episodio, nel senso, noi utilizzatori dei monopattini ci siamo resi conto che mancava una community e allora abbiamo creato questo piccolo gruppo, che poi pian piano è diventato un po' più virale, perché sta montando la cultura del monopattino e della micromobilità in Italia. Senta, visto che lei ha un indicatore importante, una tipologia dell'utente di monopattino, perché le persone chiamano piuttosto scettiche sono quelle che fisiologicamente è meglio che non lo usino, una persona anziana di 80 anni può usarlo tranquillamente, ma ha un maggior fattore di rischio. Qual è l'utente medio in Italia del monopattino elettrico? L'utente medio da noi va dai 25 ai 55-60 anni. Questo è significativo, vuol dire che il monopattino non è assolutamente un mezzo per cui bisogna essere atletici o bisogna essere magari avere una forza muscolare, è come andare in bicicletta, le biciclette vengono usate anche da donne di una certa età e noi abbiamo si fatica meno sicuramente, abbiamo anche una grandissima parte di quote rosa, perché le donne si sono rese conto e sono forse più sensibili che il monopattino porta solo dei vantaggi e nessuno svantaggio, perché porta il vantaggio di fare l'ultimo miglio, come avete detto, porta il vantaggio di poter andarci a fare una passeggiata o comunque utilizzarlo come la bicicletta, porta il vantaggio oggigiorno di non accalcarci nei mezzi pubblici. Probabilmente dunque, per le signore c'è anche il vantaggio che possono mantenere il dress code che usano magari per andare in ufficio, non occorre che si cambino, si mettano il monopattino, alla fine uno può salirci anche vestito normalmente perché non sporca, non ci si sporca con la catena, non bisogna montare a cavalcioni in una bici, in realtà uno sale sopra su un pedrellino che si muove, quindi magari una signora può andare anche con la borsetta e col vestito che mette per andare in ufficio, diciamo, forse questo è anche il vantaggio. Quello sicuramente, il vantaggio che poi è ripieghevole, dunque può essere posizionato al lato della scrivania oppure prendere un mezzo pubblico senza dover comunque occupare il posto di un'altra persona. Dunque ha solo vantaggi, noi il nostro motto è un monopattino in più e una macchina in meno che circola per le nostre strade. Però sono anche d'accordo su quello che ha detto il vostro ospite prima, che bisogna creare una cultura e bisogna creare anche la possibilità ai monopattini di girare in delle strade che siano adeguate a loro, dunque fare delle piste ciclabili un po' più, diciamo, non a macchia di leopardo ma un po' più continue, ma questo sarà tutto un divenire, perché sarà il mercato a portare i comuni. Diciamo che le città si dovranno lentamente adattare al fatto che le persone sono ben disposte a usare questo mezzo di breve transito anche per loro comodità, per arrivare in ufficio freschi, riposati, non sudati, non sporchi di morchia di bicicletta, e per lasciare la macchina in una distanza adeguata per non dover impazzire nel cercare parcheggio nelle zone più frequentate. Nicolò Rovigo, provincia di Rovigo. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Allora, la mia avventura con il monopattino parte a ottobre a Parigi, dove volevamo visitarla, e ovviamente la metropolitana non è il mezzo più ideale per vedere una città. e quindi usiamo questi monopattini in sharing. Beh, direi che l'avventura è stata bellissima e anche molto divertente per dei ragazzi giovani. Quindi in questo momento ho sfruttato questo bonus mobilità, sperando che arrivi, perché non è detto. Perché c'è anche questa incognita. Uno fa un investimento. Se c'è la corsa a click, star lì col dito pronto sul mouse da mezzanotte in poi. Non è una cosa allegra. Oltretutto io abito in provincia, quindi ho dovuto sfruttare il bonus della mia ragazza che abita invece in un capoluogo. E devo dire che in un paese di provincia è quasi più comodo che in una città, perché le distanze sono grandi, soprattutto nei paesini di campagna dove uno dalla casa vuole arrivare in piazza, dovrebbe prendere la macchina perché è troppo per la bicicletta, è troppo poco per la macchina. Quindi si rispetta anche l'architettura dei borghi storici, nel senso che col monopattino non bisogna parcheggiare in centro. Mi sembra utile. Torno un attimo al nostro ospite, ricordo Pierfrancesco Cagliari, che è direttore generale Confindustria ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori. Se bisognasse ancora fare qualche proposta positiva e costruttiva sull'uso del monopattino, quale sarebbe la proposta? Mettere magari un'assicurazione obbligatoria, l'uso del casco, dico a braccio, non ho conoscenza, dare qualche piccola norma di sicurezza ulteriore? Ma allora, tutto ciò che il buon senso può portare a pensare... Attenzione al viva voce, perché dovrebbe stare un po' più vicino, se no si sente molto male. Allora, dottore. Mi sente meglio? Sì, sì, adesso va benissimo. Allora, qualsiasi cosa che porti a quello che è la sicurezza, ben venga. Teniamo sempre conto che anche chi va in bicicletta ha lo stesso problema, cioè l'assicurazione, se vuoi, ti fai un'assicurazione tu per tutelarti. Le imposizioni sono sempre un po' particolari, magari se vuoi usare il casco, magari... pensare, come si diceva prima, a delle infrastrutture che siano sempre più sostenibili per tutti i tipi di mobilità. Noi dobbiamo pensare che il prossimo futuro sarà un futuro legato all'intermodalità, dove ci dovremmo abituare a usare il treno, la metropolitana, la bicicletta, la vettura in sharing, il monopattino, a seconda di quello che saranno le possibilità, anche perché ognuno di noi ha delle esigenze, non è detto che uno faccia solo il tragitto casa, lavoro, lavoro, casa, magari deve fare casa, lavoro, lavoro, fai la spesa, spesa, vai a casa o fai dell'altro, quindi a seconda di quelle che sono le necessità uno si adatterà. Sicuramente oggi le macchine sono troppe, quelle che girano per le strade, e noi non siamo contro le quattro ruote, ci mancherebbe, però probabilmente negli anni non si è pensato di costruire quelle infrastrutture che potessero aiutare quello che era la crescente vendita di quattro ruote a discapito di quello che era una mobilità diversa. Oggi i nostri centri e anche Milano, che non è mai stata una città turistica, è diventata una città turistica, la nostra Italia è costellata di posti che verranno di nuovo visitati dai turisti, e tutto quello che è dare la possibilità per una mobilità differenziata sarà ben accetta. Quindi secondo me sarebbe il momento che si cominciasse a considerare, non so, i luoghi di lavoro molto frequentati stabiliscano, ci sono delle aree di parcheggio del monopattino sorvegliate sicure, perché portarlo in ufficio va bene, ma fino a un certo punto metterselo accanto alla scrivania dopo che ha calpestato il suolo pubblico. Magari le case automobilistiche assieme alla ruota di scorta allegano il monopattino per dare un incentivo a comprare l'automobile. Ci fermiamo un istante, intanto riflettete su queste proposte. Melog. Trattasi di un monopattino elettrico. Vediamo. Non occupa neanche tanto spazio, alla fine. Tra l'altro, sopra una certa velocità c'è il cruise control e posso andare tranquillamente con una mano. E anche su sul terreno dissestato si va bene. Ok, qua segna la velocità e ha due modalità di velocità, questa qui rossa veloce e questa qui gialla lenta. La lenta va circa 15 all'ora, la veloce 20-25 all'ora, dipende dal terreno. Diciamo che questo test al volo mi ha decisamente convinto. Certo, è grande, ingombrante e scomodo da portare in giro, però per alcuni spostamenti in città secondo me ci sta. Per darvi ulteriore prova che sta entrando come fenomeno di costume nell'immaginario soprattutto giovanile, questo era una prova su strada del monopattino elettrico preso da un altro canale YouTube di Jackie Dale, un ragazzo che prova con entusiasmo il proprio monopattino. Mi sta suggerendo un ascoltatore sempre sul canale Telegram Mellog ha parlato che negli Stati Uniti stanno sorgendo delle categorie di persone che trovano una fonte di reddito anche nell'indotto dei monopattini. Ci sono delle persone che passano a ritirare i monopattini la sera a casa delle persone che lo usano, se lo portano in un loro garage, lo ricaricano e lo riportano carico la mattina dopo. Quindi si sta creando tutto un indotto e il monopattino entrerà comunque a far parte degli usi quotidiani di chi si muove. Volenti o nolenti dovremmo accettarlo. Le persone, dico, che per principio sono contrarie, e le città però dovranno adeguarsi, città, luoghi di lavoro, luoghi di transito degli esseri umani dovranno abituarsi, immagino nelle stazioni il parcheggio di monopattini, o perlomeno nei treni lo spazio adeguato per i monopattini. Velocemente degli ascoltatori, poi torniamo al nostro ospite, Daniela da Padova. Buongiorno a tutti, chiedo, sì, visto quello che lei ha appena finito di dire, anche i pedoni sui marciapiedi dovranno adeguarsi, perché io vedo sfrecciare monopattini sui marciapiedi. E poi chiedo, sono dotati di un fanale come le biciclette? E poi sono dotati di una freccia quantomeno per indicare la volontà di sorpassare un ciclista magari settantenne, ottantenne che viaggia sulla pista ciclabile? Lì si mette il braccio, come in bicicletta, mica c'è la freccia, uno mette il braccio. Presente solo due ultime cose, che sì, nei tempi che furono si pagava il bollo sulla bicicletta e le biciclette oggi sono sprovviste di fanale, cosa pericolosissima d'inverno. Non è che sono sprovviste, glielo dice uno che va in bicicletta, c'è un sistema non più legato alla dinamo che gira sulla ruota con i fili che si staccano, se vai dopo una certa ora devi metterti il fanalino a batteria, cioè che si applica al manubrio e funziona, c'è il lampeggiatore dietro, il fanale, c'è tutto, la gente non ce lo mette ma ci deve star quando è buio il fanale. Poi adesso le faccio rispondere dal nostro esperto sull'aspetto di cui io non so darle risposta, se sono provvisti anche i monopattini fanale, presuppongo che sono equiparate le biciclette, avranno la stessa dotazione. Sentiamo Luisa da Bergamo. Sì, ciao, volevo portare la mia esperienza. Io ho appena preso comunque 10 giorni fa il monopattino, sfruttando il fatto che abitando a Bergamo. Ma Bergamo bassa, immagino. Bergamo bassa, sì, sì. Perché sennò come fa a salire col monopattino? No, ma ci vai in salita, volendo, funziona? No, volendo potrebbe si arrivare può anche in cima, sì, a Bergamo? Sì, sì, perché ci ho anche provato. Il problema non è quello, andare su Bergamo alta, ci sono gli acciottolati, è un pochino un po' difficile. Quindi anche è scendere, meglio fare è un bel brivido andare giù in discesa col monopattino, però. Beh sì, però tutto sommato è anche bello. Però voglio dire, per esempio Bergamo, la mobilità è eccezionale, anche perché comunque biciclette e monopattini vanno la città vanno super ordinata, però Bergamo mi stupì a me quando vidi la sera alle 20 esatte tutti i sacchi della spazzatura fuori delle porte, mezz'ora dopo non c'erano più. Io che vivo a Roma mi sembrava di essere in un mondo parallelo, devo dire la sincera verità. Quindi è una gran bella intenzione comunque il monopattino, se ci deve essere anche poi il fanale, tutte queste cose. Tra l'altro io ho preso un monopattino che si chiude, quindi trasportabile benissimo con le rotelle, lo si trascina con le rotelle, può essere messo in macchina e si chiude ed è comodissimo. Io lo uso, anch'io vado in palestra, uso il monopattino per andare in palestra, uso il monopattino per metterci il mio cane che ormai non ci cammina più, uso il monopattino per tutto. Cioè, voglio dire, no, ma deve capire dei momenti di passaggio in cui un nuovo uso, una nuova consuetudine entra, diciamo, nella mentalità delle persone che lo vedono usare, c'è un momento di reticenza nell'accettarlo. Ma io capisco, andare col monopattino è diventato, per chi lo usa nei luoghi in cui è facile usarlo, è diventato un facilitatore della propria vita, perché rinunciare? Michele Labari. Sì, buongiorno Nicoletti. Io porto la mia esperienza in qualità di acquirente in un primo momento di un monopattino veramente completo, non so fare pubblicità, però comunque un mezzo che permetteva veramente di essere abbastanza sicuri. Per poi, avendo finanziato in crowdfunding un'azienda diciamo di Copenaghen che aveva prodotto, era una startup di una bicicletta elettrica, sinceramente quando mi è arrivata la bicicletta elettrica ho deciso di vendere il monopattino. Quello che io volevo soltanto dire è questo, fermo restando che è il futuro, perché è così, il monopattino rimane comunque un mezzo che verrà sempre più utilizzato. Sì. Il problema è un altro, secondo me l'errore madornale da parte dello Stato italiano è stato questo, cioè non puoi tu diffondere l'utilizzo del monopattino non avendone ancora infrastrutture. Quindi il problema serio... Sì, però ci cominciano, se aspettiamo le infrastrutture diventano vecchi gli utenti odierni del monopattino. La sigla mi dice che il tempo ci ha divorato, anche la possibilità del dottor Pierfrancesco Cagliari di dirci la sua conclusione. Ricordo che era direttore generale Confindustria ANCMA, che si occupa appunto di ciclo, motociclo e accessori, e ci ha sintetizzato quello che è il suo pensiero. È un mezzo che entrerà nell'uso comune quando le città e le strutture si adegueranno a poterlo usare. Quello che ha detto anche il nostro ascoltatore. Alla prossima!